stavo arrivando, ti ho provato a salvare ancora l'antenna. Allora siamo bene, dai, lo lascio così, lo lascio. C'è messo 8 metri di palo, dai. E poi domani salgo la fontana del baracchino che si rilascia ancora. Allora così ti metti. Domani salgo qua nel baracchino più alta. Devo prendere tu, devo prendere, aggiungere quello che c'è già, capito? Ah, se 4 metri, che ne ho già 6 metri. Ma che? Nulla, né una telefonata. Ma lì come ti trovo, se vuoi vivo, se vuoi, se vuoi. Non si è più sentito. E tu senti la Giovanni. E boh, chissà, come ti mai, boh. Ho trovato qualche borsa donzella. E le strade frische e frasche. Andrà bene. La verità che continuo, sono entrato a salutarti, più che altro, dai, se c'eri, adesso però se c'è Giovanni, faccio un controllino. Va bene Giovanni, dai, adesso sentiamo, se lo senti dire di fare una buona massa, Emanuele. Ok, ciao Giovanni, ciao. Ciao Tonino. E chi è? Chi è? Vabbè, mi saluti, non dici chi sei. Vabbè, pronto. Attenzione signor Marino, attenzione Gian Maria. Marino, attenzione Marino. Attenzione Gian Maria! Ehi, buongiorno! Ehi, buonasera! Sì, te ne sono stato, non è venuto lì, c'è abbastanza. E' preoccupato, fa parte di pasta che va a dire, ma tu, il rognone, sei preoccupato. Ma è malissimo, di lì è stato chiamato Torre. E devo chiamare a Bacchigio a farlo entrare nel canale C del PMR. Ma hai compreso? Nel canale C del PMR? Ehi, penso che nel canale 7, nel canale C. Dallo schermo. Aspetta che lo chiamo al telefono. Attenzione Gian Maria, hey. E mi vai in furgito ganare per gente. Un attimino Gian Maria che mi soccia meglio. Gian Maria mi pare che ancora non si rapporta a pulso. E mi pare che non si rapporta a pulso ancora. Core. Eia, dimmi, dimmi. Ok, allora. Ehi, gli ho dato la frequenza a Bacchigio, ma mi pare che si sta mettendo solo a posto perché ce l'ha incasinato. Come fai io, grazie? Il portatile ce l'ha incasinato. Vai, buonasera, buonasera. Ah, nel PMR? Sì.